mi toccar. Perché? Perché? Perfida! Il tatto sopportato tra i due mani impedire! Oh, tutto ci prudera! Io sono perso da che torto momento! Come? Ed hai l'ardimento di scusarti, star sola con un uomo, abbandonarmi di delle mie nozze, porre in fronte a un binario d'onore questa marca di infamia! Ah, sì, non fosse! Sì, non fosse lo scandalo, vorrei! Fosse qualche uomo! guarda un po', come sempre, questa strega se dormi. Siamo pure deboli di testa. Oh, Masetto, Masetto! Ovi la voce del monsu cavaliero! E ben che c'è? Però! Lascia che venga! Oh, se vi fosse un buco da fuggire! Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, Bricocella, hai timore che io comprenda come tra voi è passata la faccenda. Presto, presto, e anche venga, dormi voi da qualche lato, c'è una nicchia, dicela, cheto, cheto, mio sta. Capirò, se mi fedele, e in qual modo, allora capirò, se mi fedele, se mi fedele, in qual modo, allora capirò, Oh! ragazze. Non tornerete a far presto le pazze. Volete a scherzare, a ballare, a scherzare, a ballare. E il caffè, cioccolata, la cerina, giudizio. Sorbetti, confetti, la cerina, giudizio. Thank you. donna